Dopo averci introdotto nel suo laboratorio, mostrandoci gli arnesi del mestiere e le domande che lo storico rivolge alla sua fonte, nell'articolo apparso nel volume Visite pastorali ed elaborazione dei dati, anche questo presso di stampa, Cecilia Nuvola ci presenta un libro che sembra scritto di gesto. La lunga ricerca, la sapienza ordinatrice dei dati, il persuasivo supporto della quantificazione, sono lì a dimostrare tutto il lavoro che è sotteso a questa struttura piana e sicura, attenta ai documenti, ai fatti, ma anche alla tesi che intendo dimostrare. Ritengo che il libro di Cecilia Nuvola sia oggi la migliore ricerca sul diritto pastorale, il risultato di un lavoro che ha assimilato fatto proprio le discussioni metodologiche dell'Officina Trentina per continuare con le notate. Indubbiamente il pregio maggiore del libro è quello di non essere soffermato alla ricchezza dei dati con la visita, ma di averli integrati con una ricchezza di nuovi contenuti documentari e letterari che consentono di allargare lo sguardo dalle cose agli uomini, dall'alto al basso. Ne risulta un quadro organico della diocesi, da cui non è escluso l'operato del vescovo, tale che questo volume pare allinearsi con le ricerche, anche in epoca conciliare con quelle presentate, sull'applicazione del Concilio di Trento nelle diocesi italiane. Dico per l'apporto documentario, non ovviamente per l'assunto ideologico interpretativo, qui rigorosamente orientato a mettere in luce gli aspetti disciplinatori della scena del Trento. Si tratta, come abbiamo già sentito, di un disegno della diocesi tracciato dall'alto, come può offrire la fonte che costituisce l'oggetto specifico dell'indagine, finalizzata a fornire informazioni per il governo ecclesiastico. E come sintetizza il titolo stesso del volume, come conoscere come governare, è sufficiente a esprimere la consapevolezza critica dell'autore. Le molte pagine del volume sono equamente divise tra analisi delle istituzioni e attenzione alle persone. Ne emerge un quadro minuzioso e complesso delle chiese del clero, del patrimonio ecclesiastico e della sua gestione, ma anche dei laici e delle organizzazioni laicali. Cecilia Nuvola ha mostrato particolare sensibilità ad utilizzare le informazioni provenienti dagli interrogatori e dalle testimonianze contenute nella visita, per dare anima e fisicità alle serie numeriche. È riuscita a non nascondere le domande dal basso, specialmente nel far emergere l'attaccamento dei laici alle istituzioni e alle tradizioni, talvolta alle rivendicazioni dei propri diritti consuetudinari, come nel caso dei sindaci incaricati di amministrare i beni delle chiese. E questo è un caso emblematico che si presta bene a mostrare le modalità dell'intervento disciplinatore del vescovo, volto a restringere gli spazi di libertà dei laici per sottoporre alla sovrintendenza del clero qualsiasi forma di gestione degli affari ecclesiastici. Tradizionalmente nominati dalle comunità rurali, per provvedere alle patricerie delle chiese e alle carità, cioè alle elemosine e cose spesso trasformate in atto collettivo dell'intera comunità di cui ci ha parlato prima Adriano Proppi, il visitatore ordina che i sindaci siano nominati dai rispettivi direttori delle chiese. Su questo punto specifico le resistenze sono forti e i sindaci riescono a mantenere le loro prerogative. Ma il progetto di cui l'amministrazione della Chiesa riesce comunque ad affermarsi, offrendo ai parroci autorità su ogni altro aspetto della difficoltà di pastorale. Se il libro di Cecilia Nuvola è attento a far emergere la dinamica di non alto basso, pur partendo da una fonte pressoché unidirezionale, meno evidente è l'attenzione per il rapporto maschile femminile. È pur vero che l'istituzione ecclesiastica è prerogativa maschile, appunto che il codice del diritto canonico del 1917 arrivava a dire che le donne sono escluse dal sacerdozio per diritto divino, ma le religiose sono state dentro una presenza costante nella Chiesa. Mi spiace un po' non trovare a Trento, in un quadro minuzioso della diocesi, anche se non avrebbero certo bilanciato per ponderare quello che diceva. A onore del vero, bisogna dire che emerge nel volume quasi del reinventamento di storia femminile nel capitolo dedicato ai comportamenti sessuali e al matrimonio. Anzi, dopo questo problema, mi pare suscitare particolare interesse perché consente di verificare con una particolare pregnanza l'atteggiamento disciplinante del discorso preso e porta un interessante contributo a una storia, quella del matrimonio, ora al centro di molti andati in corso. La necessità di regolamentare la materia matrimoniale era fatta particolarmente urgente a parte conciliare il mondo del tempo, sia per motivi dottrinali che politico-sociali. Quando nel 1547 cominciarono a discutere a Bologna su questo punto, la desacramentalizzazione del matrimonio nei paesi della Riforma era ormai un fatto concluso, ma erano anche avviati provvedimenti che introducevano importanti mutamenti nella celebrazione del matrimonio. Si richiedeva con insistenza da parte degli Stati di dare pubblicità a un istituto che restava in gran parte un fatto privato, celebrato e consumato all'interno delle famiglie o tra le coppie, con riti stabiliti da norme costituzionali affidati alle pratiche, alla pratica e non soggetti ad alcuna autorità. L'esigenza della pubblicazione era già stata fatta propria dai paesi protestanti, con la riforma del rito matrimoniale che imponeva la celebrazione delle nozze in fronte ai testimoni, che dava notevole autorità ai ministri del culto, prendendo di partecipi per l'azione liturgica in prima persona. Ascoltato il consenso degli sposi, si stava infatti al rappresentante della Chiesa pronunciare le parole della comunio, sia pure con formula diversa da quella che verrà prescritta dalla Chiesa Tridentina. Fu la Chiesa anglicana la prima in ordine di tempo ad adottare figure regolatrici del matrimonio. La forma for the Administration of Matrimony compare nel Book of Common Prayer, stampato per la prima volta nel 1549 sotto il regno di Edoardo II, e confermata nel 1559 sotto il regno di Elisabetta. La celebrazione del rito appare guidata dal ministro che chiede il consenso degli sposi, si rivolge al padre della donna per la consegna al marito, assiste alla cerimonia dell'anello e dopo queste azioni pronuncia la formula ciò che Dio ha voluto, l'uomo non si fa. Formula adattata anche nella Chiesa luterana. Non così il rito cattolico che è capito ulteriormente il ruolo dei sacerdoti nella Chiesa sacra facendo pronunciare le parole che io comunque posso mantenere. Questa formula doveva andare particolarmente a cuore ai padri conciliari che la inserirono all'interno del decreto di riforma del matrimonio approvato nel 1563, nella penultima sessione del concilio. Concordo con una linea degli altri documenti conciliari. L'inserimento della formula rappresentava infatti l'inclusione di una norma liturgica in un testo di carattere diverso e costituiva un unicum tra i documenti approvati al tempo. Segno certo della particolare attenzione che si voleva volgere al processo di informazione dei diritti, anche se il decreto stesso ammette che si possono continuare a usare cerimonie e parole diverse considerate per la consuetudine o da riti particolari. Un altro segno dell'attenzione dei padri riuniti al tempo alla riforma del matrimonio e all'ormai acquisita necessità di intervenire autoritativamente in questa materia è la particolare urgenza con cui viene prescritta la liberazione della norma conciliare. Il decreto doveva infatti avere effetto a partire dal 30° giorno della sua pubblicazione. Strumento di controllo dell'applicazione della riforma doveva essere anche in questo caso la registrazione di avviso avvenuto nel libro parrocchiale, che doveva contenere, oltre al nome degli utenti, quello dei testimoni, per fare memoria delle attività spirituali contratte. Per comprendere l'importanza della riforma dell'antica del matrimonio, estensibile alle analoghe riforme avvenute nei paesi dell'area protestante, restano valide le indicazioni chiaramente espresse da Paolo Prodi nell'introduzione al volume La forza delle anime. Nel Medioevo, come parole sue, dal primo diritto feudale solo il matrimonio dei grandi e dei potenti sarebbe un pubblico ed è soggetto a considerazioni formali, garantie e controlli nei confronti dell'intero corpo sociale, per una definizione del nucleo familiare che ha in sé una valenza politica. Il matrimonio di coloro che non posseggono feudi e giurisdizioni rimane un fatto privato, regolato in più diversi modi secondo le consuetudini e gli statuti cittadini. L'evoluzione politica e economica dei secoli XV e XVI, che esige una sistemazione della materia matrimoniale e familiare nel quadro dei nuovi diritti statali, proprio nella misura in cui alla famiglia è stato tolto il ruolo politico che viene concentrato soltanto nella persona e nella famiglia del principe. Nei paesi della riforma l'interesse dello Stato in materia matrimoniale si esplicita ben presto anche nella forma del matrimonio civile, introdotto in Olanda nel 1580, in Inghilterra nel 1653 e discusso a più riprese in Francia nel secolo XVII. In Italia la normativa tridentina è destinata a mantenere nell'ambito ecclesiastico il controllo dei matrimoni e dei comportamenti sessuali. La lista di Ludovico Marzuzzo ci offre l'occasione di verificare alcuni aspetti dell'applicazione della norma e permette di illuminare alcuni momenti delle problematiche sociali, tutte politiche e istituzionali connesse con la riforma del matrimonio. L'arcivescovo di Trento non sottovaluta l'importanza di introdurre rapidamente agli occhi del nuovo regime matrimoniale e a questo scopo concede ai legislatori la facoltà di costituirsi in veste di tribunale, istruire processi e emanare sentenze su questioni di natura matrimoniale e sessuale. Sono processi che si svolgono in canonica con l'iter normale, presentazione della parte lesa, audizione del testimone degli imputati, sentenza finale con la determinazione di condanna e pena. Le cause matrimoniali prendono avvio sulla base di denunce dei parroci sostenute dalla voce pubblica o da persone del luogo, soprattutto donne, che espongono questioni di natura matrimoniale e sessuale con richiesta di giungere a una sentenza che ristabilisca i diritti violati. Se si escludono i presi concubinali, il 20% dell'intero personale ecclesiastico, per cui non vengono ovviamente istruiti i processi per cause matrimoniali, i comportamenti sessuali di bianchi riguardano un numero limitato di casi, poco più di una quantità. I comportamenti più comuni sono il concubinato e l'adulterio, promesse di matrimonio non mantenute, matrimonio in grado proibito, separazione con abbandono del tempo di le persone coinvolte appartengono a ceti sociali bassi. I processi si svolgono nelle canoniche di piccole comunità, del tutto astenti, nobili e cittadini. Ne dobbiamo dedurre che l'applicazione della nuova normativa conciliare sul matrimonio non trovò a Trento, almeno in questo momento, un'opposizione. Nella società trentina era sottoposta alle tensioni che in altri paesi opponevano padri e figli e causavano matrimoni clandestini e segreti. Il campione fornitoci dei processi matrimoniali ammessi alle liste pastorali ci conferma una sostanziale acquiescenza della società trentina a accettare, sia pure coercitivamente talvolta, la nuova normativa in materia matrimoniale. Non manca testimonianza della tradizione antica di celebrare privatamente il matrimonio, come nel caso di Domenica della Sera, di Baldino, e Turra dei Turri, di Baldino, che giustificano la loro unione elettorale con la convinzione di aver contratto un matrimonio in piena regola, così descritto da Valentino Valentini, che aveva proprio il ruolo sensale. Cito dal libro che ci Fu chiamata dal detto Turra che volesse venire ad essere presente, e più volte. E finalmente una volta che andava in casa di questa sposa, dove Gesù Turra disse: «Io ti prometto la benedizione di tuo per moglie», parlando con la vera domenica, facendosi molti congiuri. Ed ella disse che l'accettava per marito e che allora lui ce l'ha promessi per moglie. E so che è andato dicendo che egli era sua moglie ed in casa del suo padrone fu confermato il matrimonio. Talvolta questi matrimoni sono celebrati con il consenso delle famiglie e rientrano quindi in un contesto di prassi dell'ordinaria che non presuppone malafede. Dall'altra, le promesse scambiate privatamente sono volte ad ingannare le donne e indurle ad una relazione illecita. Il campione fornitoci dai processi trentini è interessante anche per gettare uno sguardo sulle motivazioni e protagonisti di queste relazioni anomale. Come bene sottolinea Cecilia Nuvola, poche sono le donne che accettano di avere rapporti sessuali senza che esista speranza o promessa di matrimonio. I rapporti di concubinato sono talvolta con molte donne inutili, come gli altri di Digne, che pratica con un uomo sposato consenziente la moglie, ma per lo più sono coinvolte vedove separate, donne costrette ad un matrimonio riparatore. Molte di queste hanno accettato la condizione di convivenza per necessità, essendo prive di qualsiasi supporto familiare, ma desiderano regolarizzare la loro posizione o essere poste nella condizione di potersi sposare con altri. Non è senza significato che su 13 casi di donne che si recano al tribunale per presentare la loro situazione e chiedere soccorso, 8 sono orfani di padre e figli di donne. Nell'area trentina, il matrimonio clandestino o le unioni irregolari riguardano dunque le fasce sociali dove si verificano casi di destrutturazione familiare e non rappresentano un modo di evadere le regole ferree delle strategie familiari che si presentano nei casi immobiliari rispetto. Numerosissimi casi di matrimoni clandestini o segreti, celebrati a Venezia tra la metà del secolo XVII e la metà del XVIII, segnalateci dalle altre cose di un sacro esponente del mondo, indicano invece chiaramente un'opposizione alla celebrazione pubblica del matrimonio per motivi legati alla resistenza della società nobiliare ad accettare le rigide regole che vietavano le mesalliance e i matrimoni contratti per un fine sentimentale. Ma siamo ormai in un'altra società e in un altro mondo di storia.